giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Maylin non sarebbe l'unica vittima di violenze da parte di Alessandro Venier, precedenti in Colombia per l'uomo ucciso a Gemona da madre e compagna. Il sabato nero del traffico sulla rete autostradale, code all'Isert anche da Primo Controesodo, rallentamenti tra San Giorgio di Nogaro e il bivio A4 A23. Più di un terzo delle imprese regionali del terziario accede al credito per effettuare investimenti, più 7% nel secondo trimestre dell'anno. Pordenonese effettua un bonifico per un viaggio in Africa, ma la gente sparisce nel nulla, scoperto da Adoc e Carabinieri, un giro di agenzie fantasma. Il mondo subacqueo in scena a Trieste, dal pomeriggio di pulizia dei fondali in programma oggi alla giornata di sport inclusivo iniziata questa mattina. Su Buteo, il campione italiano Under 16 è di Fontanafredda, una passione nata durante il Covid. Record di iscritti al torneo internazionale di scacchi di Spilimbergo. 12:31, buongiorno da Daniele Lettigeri, Tamicoli. La notizia di quello che era successo a Gemona, Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi dalla madre Lorena e dalla compagna colombiana, è rimbalzato subito in Sud America. A parlarne oggi un cugino di Maylin Castro Monsalvo, che racconta di un uomo violento anche con altre donne prima di Maylin. Maylin non sarebbe l'unica ad essere stata vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte di Alessandro Venier. Sarebbe accaduto anche in Colombia, paese che l'uomo frequentava da anni e dove aveva avuto altre relazioni, l'ultima con Maylin, che lo ha seguito in Italia nel 2022. A scoprirlo in questi giorni sarebbero stati i familiari della donna, che vivono a Puerto Colombia, una cittadina costiera a nord del paese sudamericano. Lo racconta, chiedendo l'anonimato, un cugino della giovane rinchiusa in una struttura carceraria per madri a Venezia, con l'accusa di aver ucciso il compagno insieme alla suocera. In questi giorni, dice il cugino dalla Colombia, stiamo ricevendo diverse segnalazioni da parte di persone disposte a dare informazioni e anche a testimoniare. Ho anche saputo, lo dico informalmente, che una sua ex sarebbe stata oggetto di violenze fisiche e psicologiche dalle quali è riuscita a fuggire. Il verbo che usa il cugino, pur con diversi condizionali, per definire la situazione di questa donna è retenida, che significa trattenuta ma anche rinchiusa. Abbiamo saputo della terribile fine di Alessandro, racconta ancora, il 31 luglio attraverso un parente che vive in Europa. La famiglia quasi non lo conosceva, continua il cugino. Lui aveva avuto contatti minimi con i genitori di lei e l'impressione era che non volesse neanche averli. All'epoca non sapevamo quello che Maylin stava passando, ma dopo quello che è accaduto in Italia, diversi familiari e persone a lei vicine hanno detto che sapevano da mesi delle violenze di lui. Maylin avrebbe detto ai familiari di voler partire per la Colombia con la bambina, anche per farla conoscere ai nonni, ma che per poter uscire dall'Italia aveva bisogno del permesso del padre della piccola, che evidentemente non voleva lasciarla partire. Proprio ieri il Tribunale dei Minori di Trieste ha dato il via all'istruttoria tesa ad appurare se la famiglia materna abbia i requisiti per prendersi cura della bambina. A Puerto Colombia, tra amici e conoscenti di Maylin, è in corso una colletta per aiutare nonna Patricia a venire in Italia. Alessandra Zigaina, TGR, Friuli Venezia Giulia. Terzo sabato da Bollino Nero in autostrada, attesi circa 190.000 transiti, previsioni rispettate a giudicare dalla situazione della circolazione. Sentiamo. Le prime code già intorno alle 6 del mattino, vacanzieri partiti prestissimo in piena notte per raggiungere le località di mare dell'Adriatico. I rallentamenti andranno verosimilmente avanti fino al tardo pomeriggio, ma si vedono anche le prime file di rientro dalla Croazia. Alla barriera dell'Isert, per esempio, 4 km di coda in aumento verso Trieste e 2 km in entrata verso Venezia. È il terzo sabato da Bollino Nero, secondo la consueta definizione, attesi circa 190.000 transiti, previsioni rispettate, circa 50.000 in più rispetto una giornata ordinaria, quando i mezzi pesanti circolano, è vero, oggi e domani sono fermi, ma sono tutti dotati di sistemi di telepedaggio e non creano code ai caselli, come nei casi di pagamento con carta di credito o contanti. I pagamenti con telepedaggio scendono dal 58% di un venerdì al 41% di un sabato. Sui monitor della sala operativa di Autostrade Alto Adriatico spiccano poi 7 km di rallentamenti tra San Giorgio di Nogaro e il bivio A4 A23, dove il traffico si divide tra chi va verso Trieste e la Croazia e chi sale verso nord. Code anche tra Palmanova e Villesse. In tutto il tratto veneto da 27 km a due corsie si circola lentamente, soprattutto da Meolo a San Stino di Livenza. Era peggio un anno fa, ma gli ultimi 9 km di terza corsia realizzati a Portogruaro hanno contribuito a rendere più fluido il traffico, sottolinea Davide Sartelli, direttore operations di Autostrade Alto Adriatico. I navigatori iniziano a suggerire agli automobilisti itinerari alternativi. Un chilometro di coda, per esempio, in uscita a Cordignano tra la 27 e la 28, ovvero il bypass che, in caso aumentassero i volumi di traffico, sarebbe la stessa concessionaria a suggerire di percorrere per reimmettersi in A4 a Portogruaro, saltando il tratto ancora due corsie. Ma code anche in statale, a Monfalcone. Per domani attesi meno veicoli in movimento, circa 170.000, i nuovi bollini neri di controesodo segnati sul calendario per il 23 e il 30 di agosto, ma in direzione contraria. Potenziati infine tutti i servizi da parte della concessionaria, in 300 in turno oggi, dal personale pronto a intervenire in caso di guasti fino alle situazioni di emergenza, sempre pronte per esempio due ambulanze fuori dai caselli in Veneto e a San Giorgio di Nogaro. Palmanova, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo al meteo, il cielo è sereno su tutta la regione, alle 11 a Trieste c'erano 27 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 25 gradi, a Pordenone 28 gradi, a Udine e Gorizia 32, a Sappada 22 gradi, a Tarvisio 25, a Forni di Sopra e sul Piancavallo 26 gradi, 27 a Tolmezzo, sul Monte Lussari 21 gradi, sullo Zoncolan 22, a Grado 28 gradi, a Lignano 29 gradi, temperatura del mare a Grado 25 gradi, a Lignano 26,5. Queste le previsioni per le prossime ore. Cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, al più localmente poco nuvoloso nel pomeriggio sulla zona montana. Temperatura in aumento con caldo sulla pianura, mentre sulla costa sarà mitigato dai venti di brezza. Sono oltre un terzo, il 37%, le imprese del commercio, del turismo e dei servizi del Friuli Venezia Giulia che accedono al credito per effettuare investimenti. Un dato in crescita di 7 punti rispetto ai primi 3 mesi dell'anno. Lo afferma l'osservatorio trimestrale di Confcommercio FVG. Si tratta, dice il presidente regionale Gianluca Madriz, del doppio della media nazionale. Il segnale di un sistema produttivo dinamico che guarda con fiducia alla seconda parte dell'anno, con dati che premiano l'impegno delle imprese nel continuare a investire nonostante la perdurante situazione di instabilità internazionale. Guardando ancora al credito, il report illustra come rispetto al trimestre precedente siano diminuite le imprese che chiedono prestiti per ragioni di liquidità, 47% contro 62%, e quasi raddoppiate invece quelle che lo fanno per ristrutturare il proprio debito, che sono il 16%. In generale, le imprese del terziario che hanno chiesto credito nel secondo trimestre sono un quinto del totale, in lieve aumento rispetto al 18% del primo trimestre, mentre la percentuale di quelle che vede accolta la propria domanda resta stabile al 56%. Quanto invece all'andamento della propria azienda, il giudizio anche in questo caso è positivo. Gli imprenditori del terziario registrano un miglioramento sia nei ricavi che nell'occupazione, con una lieve flessione prevista solo alla fine dell'estate, mentre la fiducia sulle prospettive a breve termine è stabile al 47%. 5 punti percentuali in più della media nazionale. Ora la cronaca con una truffa che riguarda i viaggi. Il prezzo era buono, scontato del 30%. Il sito della Dove Vuoi Travel di Ancona era ben fatto, le recensioni positive. L'operatore disponibile è preparato. Così una donna di Pordenone ha deciso di regalarsi un tour in Tanzania e a Zanzibar, con partenza da Venezia il 6 agosto. Ma una volta fatto il bonifico a un numero Sumapi in Irlanda e ricevuta una fattura, rivelatasi poi farlocca, l'operatore, che diceva di chiamarsi Mattia, è diventato irreperibile. Non era raggiungibile però soltanto dalla donna di Pordenone. Agli amici di lei che compilavano il form dell'agenzia fingendo di chiedere lumi sui viaggi, continuava a rispondere con professionalità, prestandosi anche a produrre la visura camerale della società, che in realtà però ha sede in un ristorante chiuso. La donna si è rivolta quindi all'Associazione dei Consumatori Ado e ai Carabinieri di Pordenone per denunciare la truffa. Le indagini sono risalite ad altre due agenzie online, cloni di quella anconetana, la Viaggia Qui di Pescara e la Viaggiamoci di Livorno, denunciata più volte negli ultimi mesi, e a diversi numeri di sedicenti agenti. Nel portfolio del furbetto o dei furbetti dei viaggi, anche altre due agenzie, la ULP Travel Tour Operator di Livorno, che risulta inesistente, e la Viaggi AC Tour di Modena, che invece ha una sede reale. La titolare ha raccontato ad Adoc di aver subito 2 mesi fa il furto d'identità e la clonazione del sito attraverso una piattaforma americana sita nel Massachusetts. La titolare aveva già sporto denuncia alla polizia postale e fatto ripristinare a proprie spese il sito web dell'agenzia. Tornando a Pordenone, oltre al danno la beffa, quando la turista truffata ha sporto denuncia ai carabinieri, il truffatore le ha bonificato 90 euro dal suo conto irlandese low cost. Anche la FIAVET regionale, Federazione degli Agenti di Viaggio, sta agendo per tutelare soci e clienti. La Subsea Club Trieste effettuerà questo pomeriggio una pulizia dei fondali marini nella zona del Dosso di Santa Croce. L'area interessata dalla manifestazione sarà interdetta al traffico navale e alla sosta e ancoraggio di imbarcazioni dalle 13.30 alle 17.30. Il mondo e i suoi colori visti da un'altra prospettiva, quella in cui la luce è filtrata da metri e metri di acqua marina. Sono le meraviglie dell'ambiente subacqueo, ma nella pancia del mare c'è di tutto e spesso la bellezza non c'entra. Per fortuna c'è chi se ne occupa, volontari, appassionati, qui nel Golfo di Trieste, i ricercatori dell'area marina protetta di Miramare. Una spedizione si spingerà ad alcune miglia dalla costa, protagonisti dell'impresa, i sub del Subsea Club Trieste. Tra loro Massimiliano Licen. Il nostro obiettivo oggi sarà quello di scendere a una profondità di circa 18 metri, arrivare sul relitto della nostra vecchia sede, il Pontone Quieto, e andare a rimuovere una rete da pesca che purtroppo si è impigliata nel relitto e sta causando, con il tempo, sta causando una pescata, diciamo, non sfruttata. La rete è probabilmente finita in mare per un incidente, in questo caso non c'è dolo, ma reti sono state trovate anche sui fondali della riserva stessa. Il racconto del biologo Saul Ciriaco dell'area marina di Miramare. È stato il caso per esempio di una rete dell'anno scorso rimasta a Miramare che è stata tolta via proprio nell'ultimo intervento che abbiamo fatto un mese e mezzo fa. A volte è incuria, a volte ci si mette di mezzo anche il meteo. E sott'acqua si trovano situazioni anche peggiori e il peggio aumenta ovviamente man mano che ci si avvicina alla costa. La bottiglia, il piatto, la scatola delle gomme americane o il pacchetto delle sigarette. Cioè, siamo nel 2025 e troviamo ancora oggi pacchetti di sigarette e le lozioni per il sole, i doposole o gli antisole, troviamo le bottiglie buttate in acqua, insomma, è una roba un po' incivile. La rete di associazioni, ci sono anche altri Italia Ambiente e Ghisleri Sub, fa capo alla FIPSAS regionale, capofila di un progetto. Dobbiamo sensibilizzare il pubblico verso quello che è il problema delle reti fantasma, quindi il problema dell'incaglio di queste reti, ma anche di quello che continuano a fare in acqua. Lo fanno per gli organismi biologici, perché continuano a pescare, lo fanno anche per la dispersione, per esempio, delle microplastiche e delle nanoplastiche disgregandosi. Trieste, Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. E stamattina nel braccio di mare presso la sede della Canottieri Sabaudia si è svolta una festa di subacquea inclusiva in riva al mare, animata da tanti volontari e aperta a persone con e senza disabilità. Il mare è uno spazio di libertà ed inclusione per chi sulla terraferma non può muoversi senza l'ausilio di una carrozzina, le stampelle, il deambulatore. Ci vuole coraggio per chi è para o tetraplegico ad entrarci la prima volta, ma una volta immersi la prospettiva cambia e, come per magia, chi non può camminare in acqua sta in piedi, una sensazione dimenticata o per alcuni mai conosciuta. L'associazione di pesca sportiva Amici del Bunker e l'Handicap Scuba Association hanno chiamato a raccolta organizzazioni di volontariato da tutta la regione per una giornata di immersioni al circolo Canottieri Saturnia di Barcola. Una ventina di disabili che hanno scelto di cimentarsi in questa esperienza. Muniti di giubbotti di galleggiamento, pinne e bombole, accompagnati da istruttori, hanno potuto immergersi sul fondo del mare. Tra loro anche Alessandra Tommasini, campionessa italiana di nuoto paralimpico. Spaventata un po' dall'attività subacquea a causa delle sue difficoltà respiratorie, racconta però come il mare giochi un ruolo fondamentale nella sua vita. L'acqua è l'ultimo ricordo della mia vita in piedi, perché il giorno dell'incidente io sono stata investita sulle strisce pedonali a mezzogiorno e 45 e fino alle 11.30 io ero a Barcola a nuotare e quindi già nuotavo anche prima. E quindi per me l'acqua è stato un ritornare indietro nel tempo, la mia vita in piedi. L'acqua, lei dice, è terapeutica, che sensazioni dà? Allora, per chi come me, io sono tetraplegica e anche per i paraplegici, l'acqua dà una sensazione di leggerezza, è l'unico momento in cui siamo in grado di gestirci da soli, senza la forza di gravità, senza la carrozzina, per cui è un modo di sentirsi autonomi. Per quanto poco, perché ovviamente l'autonomia in acqua dura poco, però è una sensazione bellissima, perché riporta la mente alla vita priva di forza di gravità e quindi priva di carrozzina. E per me è stato una gioia immensa poter entrare in acqua dopo l'incidente, dopo 8 mesi dall'incidente mi hanno fatto entrare in acqua quando ero ancora ricoverata all'ospedale Gervasutta e da lì la mia passione poi è continuata e adesso tuttora faccio nuoto paraolimpico con la Triestina Nuoto. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il celebre pianista Alexei Botvinnov, definito l'artista del popolo in Ucraina, è l'atteso ospite di stasera del cartellone di Carni Armonie. Tra i massimi interpreti del repertorio di Rachmaninov, in sottofondo lo sentite eseguire l'elegia dell'opera numero 3, Morceau de Fantasie, musicista di fama internazionale e ambasciatore per la pace, Botvinnov sarà il protagonista del recital che inizierà alle 20.30 nella chiesa di San Rocco a Cavazzo Carnico, con un programma che attraverserà il romanticismo tedesco e francese fino ad approdare appunto alla mano. Rachmaninov. E il tradizionale concerto dell'alba di Emanuele Filippi al Molo Audace domani mattina, domenica 10 agosto alle 4.50 con ingresso libero nell'ambito di Trieste Loves Jazz, uno dei migliori pianisti della sua generazione. Secondo Enrico Rava, Emanuele Filippi è un pianista e compositore friulano, classe 92. Negli anni si è esibito su prestigiosi palchi, tra cui Blue Note di Milano, Umbria Jazz, su Rai 1, al Mittelfest, alla Rockwood Music Hall a New York, alla Kansas Smiths a Londra. Attualmente vive a Parigi dopo 2 anni di perfezionamento e di attività a New York. Torna oggi e domani a Stolvizza di Resia la festa dell'Arrotino, evento che celebra un mestiere antico e identitario ancora vivo grazie alla passione degli arrotini della Varresia e all'impegno dell'associazione CAMA, Comitato Associativo Monumento all'Arrotino. Abbiamo intervistato la presidente Lucia Di Lenardo. La festa dell'Arrotino celebra un mestiere nobile e ricco di tradizione, perché è quello dell'Arrotino che insomma custode di un antico sapere artigianale nostro, della nostra valle. In queste 2 giornate di festa si potrà assistere a dimostrazioni di affilatura, poi sarà possibile osservare il maestro Campedel nella forgiatura di forbici artigianali sul momento, proprio le farà al momento. Ci saranno inoltre esposizioni di artigiani e dobbisti locali per mostrare il meglio della tradizione, della creatività della montagna, insomma. Poi non mancheranno stand enogastronomici, degustazione vini. Inoltre alle 19 di sabato è prevista una suggestiva camminata sotto le stelle. Sempre sabato ci sarà l'inaugurazione di una mostra d'arte, mentre domenica la presentazione di un libro chiude gli eventi culturali. E abbiamo anche pensato all'intrattenimento dei più piccoli con laboratori didattici. Quanto è stato importante per la Valresia e quanto è importante ancora oggi il mestiere e la tradizione degli arrotini e dove sono arrivati gli arrotini che, ricordiamo, sono stati anche emigranti? Sì, loro sono emigrati in tutta Europa, hanno lasciato le famiglie, si sono cimentati in questo mestiere perché dovevano per sostentamento, perché poi alla fine qui in valle non c'era molta offerta di lavoro, per cui qualcosa dovevano inventarsi e quindi si sono spinti in tutta Europa. L'arrotino poi stava fuori un bel periodo durante l'anno, per cui la famiglia non la vedeva. e quando rientrava non soltanto non portava, diciamo, sostentamento appunto alla famiglia, ma portava anche il sapere e la conoscenza che aveva acquisito nei suoi viaggi. Quindi diciamo espandeva un attimino la cultura del popolo resiano. Continuiamo con le manifestazioni dell'estate. Torna oggi e domani a Paluzza il tradizionale palio da Schiarogiules con i rappresentanti di 15 contrade che si sfideranno in costumi tipici trascinando questi antichi mezzi di trasporto. L'appuntamento clou con le varie sfide che compongono il palio sarà domani, domenica, a partire dalle 17. Nel frattempo, i gustosi e genuini sapori della carnia sono protagonisti della rassegna gastronomica Golosez Amor di Contrada, che inizia oggi alle 18 con specialità tipiche che variano da contrada a contrada. Camminate notturne alla vigilia della notte di San Lorenzo per osservare il cielo stellato, tra quelle organizzate oggi, quella dell'associazione Matayur Astrolab dal rifugio Domna Matayur, con partenza dal rifugio Pelizzo alle 18.30, ritorno alle 23, indispensabile l'iscrizione sul sito della Proloco Valli del Natesone www.nedischedoline.it. Poi a Valle di Soffumbergo, frazione di Faedis, la camminata guidata notturna di San Lorenzo, il ritrovo previsto in piazza Valle di Soffumbergo tra le 19.30 e le 20 per le iscrizioni, con partenza alle 20.30, osservazione astronomica con Steno Ferluga. E ancora Stolvizza di Resia sul percorso permanente Talipa Pot organizzato da Vivi Stolvizza, ritrovo in piazza del Museo dell'Arrotino alle 18, partenza alle 19, iscrizione con quota FIASP, obbligatoria la prenotazione. Siamo allo sport con il basket. La nazionale guidata dal triestino Gianmarco Pozzecco giocherà stasera alle 20 al Pallarubini di Trieste contro la Lettonia, allenata da un altro italiano, Luca Banchi. Si tratta di un amichevole di preparazione al campionato europeo che partirà il 28 agosto a Cipro, quando l'Italia esordirà contro la Grecia. Tra gli azzurri sul parquet ci sarà anche l'altro triestino, Stefano Tonut. Ed è di Fontanafredda, David Del Ben, 14 anni, campione italiano under 16 di subbuteo, ha scoperto il gioco durante la pandemia e da allora si è già aggiudicato diversi titoli. Ha cominciato durante la pandemia e da allora non ha più smesso, conquistando una serie di titoli, l'ultimo dei quali è il primo posto nel campionato italiano under 16. David Del Ben, 14enne di Fontanafredda, si allena con altri appassionati di subbuteo in uno spazio che si trova nella ex scuola di Pianzano, a Godega di Sant'Urbano. Le regole sono più o meno quelle del calcio, in campo tanti mini giocatori che si muovono con colpi delle dita per colpire il pallone e metterlo in rete. Con un omino spiega si può colpire la palla per un massimo di 3 volte, poi bisogna cambiare. Per tirare bisogna trovarsi all'interno dell'area di tiro. Il suo club, i Pinco Devils Table Soccer, che fa parte dell'associazione Pinco Sport, ha 25 tesserati, circa 1200 gli appassionati in tutta Italia per un gioco d'altri tempi che di recente è tornato di moda. Prima dell'ultimo titolo, Davide è stato campione italiano under 12 nella sua prima partecipazione alla competizione, poi sono venute le vittorie negli europei a squadre e individuali a Gibilterra e quella a squadre nei mondiali di Roma. È un gioco che distoglie i ragazzi da videogiochi e smartphone, commenta il padre Federico. È un momento di aggregazione con persone di tutte le età e le partite non sono scontate, come nel gioco del calcio. Fontanafredda, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Inizierà alle 16 nel centro sportivo La Favorita di Spilimbergo la 23esima edizione del torneo internazionale di scacchi organizzato dal circolo Le Due Torri di Spilimbergo, che andrà avanti fino al 15 agosto. Sentiamo il presidente del circolo, Andrea Bisaro. Abbiamo oltre già 560 iscritti, una cosa pazzesca, perché noi il record italiano di sempre che l'avevamo fatto lo scorso anno era di 451, poi abbiamo superato di oltre 100 iscritti e non è ancora finita, perché si stanno iscrivendo ancora giocatori da ogni parte del mondo, perché credo che avremo dalle 50 alle 70 nazioni presenti da ogni continente. I nomi più di spicco del torneo sono ai vertici mondiali, nei top 50 mondiali, e sono Zobava Badur della Georgia, Lonchenko Alexander Germania, poi abbiamo Darda Daniel del Belgio, e poi il numero uno è il famosissimo Corbo Phantom dall'Ucraina, che questo è stato nei primi 10 al mondo anche come giocatore. Ecco, più molti altri, perché il livello del torneo dei professionisti master è altissimo, abbiamo più di 100 titolati su 240 iscritti, perché nel nostro torneo facciamo il torneo master per i professionisti dove giocano i professionisti, poi l'A, B e il C per i neofiti dove chiaramente giocano chi ha appena iniziato. Si tratta di un torneo che richiama anche molto pubblico. Il pubblico è tantissimo, che tra l'altro abbiamo la diretta online mondiale delle partite. Tra l'altro quest'anno verrà fatto come i mondiali di scacchi che sono state giocate a Budapest, viene fatto il 90° minuto come il calcio, per cui nel post, ogni giorno nel post partite ci sono proprio tutte le partite commentate, le interviste o cose proprio fatte da professionisti, ecco. Oggi che si parla tanto e si usa tanto l'intelligenza artificiale, qual è il ruolo e il potenziale degli scacchi anche confronto a questi algoritmi che avanzano sempre di più? È chiaro che l'avvento del computer negli scacchi è stato determinante per una crescita sotto certi aspetti, però quello che si evince è che chiaramente non è solo il computer, perché ancora adesso l'aspetto umano, la fantasia, la tecnica, cosa, cioè sono proprio cose che devono venire da dentro, il talento naturale della persona. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio Regionale. Alla regia Tommaso Vinoni e Mauro Cumini, in redazione ha collaborato Samantha Agonda, Daniele Letti, Geri Tamicoli. Grazie per l'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.